Sotto questo acciar reale di cader la gloria, sotto questo acciar reale. sentite, voi lo sentite ancora. Infidi amanti dite, voi lo sentite ancora, lo sentite ancora. Infidi amanti dite, voi lo sentite ancora, lo sentite ancora. Thank you.